Il cervo e la vite, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. All'ombra d'una vite alta e frondosa, come crescon sovente nei caldi climi, un cervo spinto in caccia timido si accovaccia, e nella selva delle foglie spesse poté salvar la pelle sua preziosa. I cacciatori chiaman dalla traccia i mesti cani, ma la bestia ingrata non si mette a brucar la sua benevola benefattrice come un'insalata? E il mal per lui, che allo stormir ritornano i cani e addosso piglia del suo sangue la vite e i fe vermiglia. Invan piange la bestia, invan pietà dai cacciatori supplica. Della sua carne ebbe ciascuno un tondo e i cani ne furono consolati. Esempio a quanti ingrati son nel mondo. Fine della favola Il cervo e la vite. Questa registrazione è di dominio pubblico.